Nobile, un programma di Radio Spore. Era una notte fredda e nebbiosa quando l'addetto al carico e scarico merci decise di fare un salto al Megastore, il minuscolo negozio di dischi sotto i portici. Mentre si addentrava tra gli scaffali del negozio, notò qualcosa di strano. C'era una botola nascosta, una stanza segreta piena di polvere, e lì, in un angolo, una pila di musicassette, vecchie, polverose, ammuffite e misteriosamente classificate. L'addetto al carico scarico le sfiorò e immediatamente cominciò a sentire una strana sensazione. Le spore che avevano attaccato le musicassette gli stavano trasmettendo una serie di poteri sonici e capacità cyberpunk, trasformandolo in un DJ radiofonico mutato. Da quel momento in poi, ogni volta che inserisce nel registratore una musicassetta ammuffita, egli è dotato per tutta la durata del nastro di fenomenali superpoteri, tra cui hacking mentale, sintonizzazione perfetta, trasmissione rave telepatica, mixaggio immateriale, capacità radiopirocinetiche, DJing neuronale. Grazie a Sonic Belligeranza Megastore, habitat per tutti i Sonic aficionados, e il professor Giampiero Cane, critico musicale e scrittore. Shelly Man Contemporary 3507 e 3584. Shelly Man è un batterista americano jazz della West Coast, e i numeri 3507 e 3584 si riferiscono alla Contemporary Records, etichetta che ha pubblicato i lavori intorno alla fine degli anni 60 di Shelly Man and His Men. Jazz, bebop, cool jazz. Sul lato A, Contemporary 3507, abbiamo Grasshopper, la Mokura, Summer Light, Afro Day, You and the Night and the Music, Gazelle, Sweet Spring is Here, e Mellets. Non è molto chiaro in quale lato continuano, ma il 3584 abbiamo Shelly Man, ora capisco. Intanto è segnata una data 10/9/53, quindi abbastanza precedente all'uscita del disco che si può trovare online, Shelly Man and His Men, con queste stesse tracce, più o meno. E continuano all'interno di questa PDK Dynamic Cassette da 90 minuti, l'elenco dei pezzi, delle tracce: You're Getting to Be a Habit with Me, You Are My Thrill, Fugue, e poi segue l'elenco dei musicisti che hanno partecipato a queste registrazioni. E di nuovo una data 14/9/54, quindi non sono tutte coincidenti come anno di registrazione, e vi risparmio i nomi dei musicisti perché sicuramente non riuscirei a leggerli esattamente. E nel frattempo vedo un'altra data ancora, 6/4/53, e una cosa curiosa: nell'interno del dorso del foglietto contenente queste informazioni, un asterisco riferito al pezzo Fugue, trio DB, Flip Man, Autumn New York. E sulla cassetta vera e propria, nell'etichetta del lato A, troviamo la dicitura Shelly Man and His Men C 3507 e sul lato B Sherryman the 3 and the 2, misteriosa dicitura C3584. E andiamo ad ascoltare. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.